si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori. Buongiorno ad Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. Tra poco una veloce rassegna stampa fino ad arrivare al giornale radio delle 8. Subito dopo riprenderemo con il programma e poi naturalmente con i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie. Quest'oggi partiamo da una notizia che viene dalla Francia, perché in Francia è stata approvata, almeno nei due rami del Parlamento, la legge contro lo spreco dei prodotti alimentari. In pratica, i supermercati non potranno più gettare l'invenduto, ma saranno costretti a donarlo alle associazioni di beneficenza, che lo daranno a chi ha più bisogno. Una legge di frontiera, d'avanguardia, una legge evocata anche in Italia, dove pure di progetti e di programmi contro lo spreco, soprattutto inaccettabile, del cibo si parla da molto. Da qua partiremo dopo il GR delle 8. Intanto subito i nostri contatti, se volete cominciare a interagire con noi in tempo reale. Ci trovate su Facebook, la pagina del programma è Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Se volete scriverci 349-238-6666, più avanti apriremo anche il numero verde per i vostri interventi in diretta. Adesso andiamo ad iniziare. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Allora, una giornata, quella di ieri, rappresentata oggi dai giornali in edicola, diciamo a base di impresentabili, di impresentabilità. È scoppiato, come sapete, il caso degli impresentabili, così definiti e elencati nel numero di 16 da parte della Commissione Antimafia, in vista delle elezioni regionali, per la verità poche ore prima delle elezioni regionali. Ma c'è anche il più impresentabile di tutti, che è Joseph Blatter, rieletto per la quinta volta presidente della FIFA, nonostante l'FBI, indagando ormai, abbia scavato fino ad arrivare vicinissimo a lui. Non è stato tra quelli nei confronti dei quali è stato emesso un mandato di arresto, 7, due giorni fa, ma insomma fa parte anche lui delle indagini. Tra l'altro oggi le carte sui giornali parlano che anche il figlio, dicono che anche, scusate, il nipote di Blatter è pure lui coinvolto nell'inchiesta, e il suo nome circola nelle carte che riguardano questa inchiesta di tangenti per l'assegnazione dei diritti televisivi, del marketing e soprattutto per l'assegnazione del grande evento, i mondiali di calcio. Né in tutta questa impresentabilità c'è chi esce dalla lista degli impresentabili. È una notizia piccola di ieri rispetto a tutto quello che stiamo parlando, ma che per certi aspetti è storica. La riporta sulla prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano appunto del Sole 24 Ore, ed è questa: Washington toglie Cuba dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo. E infatti la notizia è curiosa, che arriva diciamo in un momento di disgelo grande tra gli Stati Uniti e Cuba, insomma, dopo che già si sapeva che l'annunciata fine dell'embargo, la ripresa delle relazioni diplomatiche, gli incontri e quant'altro tra Obama e Castro fratello. Adesso la notizia è questa: gli Stati Uniti hanno ufficialmente depennato Cuba dalla lista nera dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano. È una mossa che prelude, secondo la maggior parte degli osservatori, alla riapertura delle ambasciate negli Stati Uniti. Quindi diciamo c'è qualcuno che va in controtendenza, che esce da una lista nera, ma tutto il resto invece va nella direzione dell'impresentabilità, dicevamo. Allora, titolo del Corriere: Blatter rieletto dopo lo scandalo, il principe lascia. Il principe è Ali bin al-Hussein, battuto 103 voti a 73, 6 voti in meno della maggioranza qualificata ha avuto Blatter, che poi insomma, Ali Hussein, che poi ha ritirato la sua candidatura aprendo la strada alla rielezione di Blatter. C'è anche un dato anagrafico: Blatter ha quanti anni ha? Boh, insomma, parecchi, forse un'ottantina, forse un po' meno, e Ali Hussein ne aveva 39, ne avrebbe 39, ne ha 39. L'età non cambia, però non è stato eletto. Questo per quanto riguarda la questione della FIFA, su cui torneremo pure tra poco. L'altra vicenda è quella, naturalmente, del caso De Luca, il PD contro l'antimafia, perché insomma la coda di questa nomina di impresentabili è una coda di polemica all'interno del Partito Democratico, perché Renzi lo ha detto senza mezze misure: il bersaglio sono io. Un pezzo del partito cerca la rivincita, lavora per far perdere il PD pur di farmi male. Questo è quello che ha detto Renzi ieri di fronte alla scelta del presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, della minoranza PD, oppositrice di Renzi, che appunto ha inserito nella lista dei candidati cosiddetti impresentabili anche il nome di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, candidato alla presidenza della regione Campania, con una condanna per, adesso ricordo, ma credo che sia concussione, esatto, in un processo nel quale tra l'altro De Luca ha rinunciato anche alla prescrizione. L'inserimento di questo nome viene giudicato da quasi tutti i membri del PD, della maggioranza del PD, come, diciamo, uno sgambetto fatto da Rosi Bindi, né più né meno, a Renzi. È una vicenda, insomma, un po' complessa. Andiamo a vedere un po'. Leggiamo: mentre la presidente Rosi Bindi comincia la conferenza stampa, gli addetti distribuiscono 11 fogli con la lista degli impresentabili. Al numero 5, ecco, a sorpresa, De Luca Vincenzo, candidato del Partito Democratico alla regione Campania, rinviato a giudizio per concussione aggravata. Un nome che insieme... un nome che insieme agli altri 16, che poi diventano 15 perché viene depennato Biagio Iacolare dell'UDC dopo la protesta dei suoi legali, che fa scoppiare una mezza rivolta contro la presidente della commissione antimafia. Renzi dalle Marche dice: sulla legalità non facciamo sconti a nessuno, ma mi fa male che si utilizzi la vicenda dell'antimafia per una discussione tutta interna per regolare dei conti dentro al PD. Rosi Bindi cosa dice, cosa spiega? Dice che alla base dell'elenco c'è il codice di autoregolamentazione approvato all'unanimità da tutti i partiti, un codice che è più rigoroso addirittura della legge Severino, perché riguarda anche i rinvii a giudizio, ecco perché c'è dentro anche De Luca, ma meno esteso perché riguarda solo i reati collegati a fenomeni mafiosi. Ci viene inclusa dentro anche la concussione, che è il reato di De Luca. Sulla base di questa decisione, De Luca, che pure ha rinunciato alla prescrizione nel suo processo, è rientrato tra gli impresentabili. Poi Rosi Bindi replica a Renzi, dice: autoreferenziali? No, diamo informazioni ai cittadini, scattiamo una fotografia, i cittadini poi sceglieranno come votare. Allora, prima di... intanto sempre il Corriere rende conto, diciamo così, del silenzio di Raffaele Cantone, dell'autorità, presidente dell'autorità anticorruzione, che fa sapere, rilascia solo poche parole. Ricordo che l'antimafia è una commissione formata da parlamentari, dice, cioè... lascia intendere che la giustizia non c'entra nulla. È una decisione questa della commissione antimafia presa da parlamentari nei confronti di altri politici, quindi diciamo questa volta Cantone non vuole evocare lo scontro tra politica e giustizia, perché è una questione interna alla politica, trattandosi appunto, per quanto riguarda la commissione antimafia, di una commissione parlamentare e politica. Così, insomma, i giornali interpretano il silenzio di Cantone, che ha detto: ogni cosa che dico verrebbe letta in modo distorto, interpretata come una presa di posizione, meglio tacere. C'è però una interessante intervista di Repubblica al segretario della commissione antimafia Marco Di Lello, che dice questo: la presidente Bindi ha detto una bugia nel momento in cui ha sostenuto che quella lista è stata condivisa con la commissione, quei nomi sono stati non sono stati ponderati uno per uno. Sentiamo, in conferenza stampa veramente la domanda è questa: ha spiegato la Bindi che sono stati discussi per giorni questi nomi in commissione, ma quando mai? Per i quattro pugliesi forse, ma nei giorni scorsi, e per i 13 campani mai visti quei nomi, tra cui appunto anche De Luca. Col pretesto della segretezza, Rosy Bindi ha gestito in assoluta autonomia i rapporti con le procure e le prefetture campane. Ha curato lei col suo staff e coi suoi consulenti la compilazione della lista, della quale noi non abbiamo saputo nulla, dice il segretario, ripeto, della commissione antimafia. Che poi va avanti. L'ho incalzata personalmente in ufficio di presidenza. Ci ha liquidato la Bindi sostenendo che avrebbe portato i nomi in assemblea plenaria dell'antimafia e poi in conferenza stampa, e così è stato. Peccato che la commissione sia durata i pochi minuti necessari alla distribuzione dei fogli coi nomi. Stop, nessun dibattito, nessun approfondimento. E poi c'è un'altra anomalia che non è riuscita a spiegarci: come sia stato possibile arrivare a venerdì, a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale. Di chi è la responsabilità se tutto questo è stato gestito da lei? Così parla il segretario, ripeto, della commissione antimafia. A proposito di quello che tutti sapete, c'è il traffico, ci fermiamo un attimo. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. Un'occhiata ai giornali di oggi prima di arrivare al GR delle 8 e poi di iniziare con Si può fare alle 8.15. Uno sguardo veloce ai titoli dei giornali, che sono naturalmente tutti sulla vicenda De Luca e gli impresentabili. Il giornale scrive: PD, cornuti e mazziati. Poi il giorno: impresentabili, la faida dentro il Partito Democratico. Scrive Libero: impresentabile è il PD, esplode la bomba De Luca, perfida vendetta della Bindi, anche il candidato democratico nella lista degli invotabili secondo l'antimafia. Poi c'è chi, come il Manifesto, con il classico gioco di parole, scrive: listofanti al posto di lestofanti, insulti e accuse in stile berlusconiano da Renzi a tutto lo stato maggiore del PD e tutto lo stato maggiore del PD contro il presidente dell'antimafia per aver reso pubbliche le notizie sui pochi candidati in lista con problemi giudiziari. Insomma, secondo quasi tutti si tratta veramente di uno scontro interno al PD, diciamo a base di incandidabilità, ecco, mettiamola così. Andiamo sul intanto vediamo, per quanto riguarda Blatter, le carte che vi anticipavo prima. Repubblica: nelle carte dell'FBI gli affari di Philippe, nipote del presidente Blatter. Si tratta di questo, di Philippe Blatter, nipote di Sepp. La sua storia è questa: è un mediatore, anche lui, che entra in questa vicenda, un consulente di McKinsey. Nel 2011 fallisce in Svizzera la International Sport and Leisure, un mastodonte del marketing sportivo che aveva i diritti per i mondiali di calcio del 2002 e del 2006. Viene lo spazio lasciato libero dalla ISL, viene riempito dal gruppo tedesco Kirk Media e da Kirk Sport. Di lì a poco questa società viene rifondata col nome di Infront, stessi uffici a Zurigo, stesse fotocopiatrici, stessi contratti, miliardari, diritti TV, eccetera. A guidarla dal 2005 chi c'è? Il giovane Philippe Blatter. Un passato alla McKinsey, dove seguiva senza problemi tutt'altro il cliente FIFA, cioè lo zio Sepp, che al momento, zio Sepp fa morire da ridere, che al momento della nomina rispose a chi vi intravedeva un conflitto di interessi: io non c'entro niente. E invece, secondo la FBI, c'entrano tutti e due, zio e nipote. Quello che è successo ieri lo sapete, insomma, con il voto segreto Blatter è stato rieletto per la quinta volta alla presidenza della FIFA e alla fine si è preso anche il gusto di sbeffeggiare il mondo intero dicendo: nessuno è perfetto. Straordinario, da questo punto di vista. Però dicevamo anche spazio anche per un'altra notizia sulla stampa: l'Italia fuori dalla recessione, cresce il PIL e salgono i prezzi, e questa può essere vista anche sicuramente è una buona notizia, anzi due. La prima è che l'Italia è fuori dalla recessione, anche se di un soffio. Nel primo trimestre 2015 il PIL è aumentato dello 0,3% rispetto all'ultimo trimestre 2014, con un rialzo maggiore da 4 anni a questa parte. Secondo dato, a maggio l'indice dei prezzi al consumo è tornato a salire, quindi diciamo segnalando l'uscita da questa deflazione stagnante. Notizie che hanno fatto sorridere il ministro dell'economia Padoan, che ha detto insomma una crescita acquisita per l'anno che comincia a essere incoraggiante. Prima di chiudere, una buona notizia, sì, ce l'abbiamo, vai. Un'altra buona notizia, oltre a questa che ricorda appunto la stampa con il, questo dato sul PIL, ed è questa: gli italiani sono tra gli europei che fumano di meno. Fumare fa male, l'abbiamo capito, chi fuma è naturalmente libero di farlo, no? Figuriamoci, non è che stiamo qua a censurare i fumatori, però insomma è importante essere consapevoli che fumare poco è meglio che fumare tanto, non fumare addirittura è meglio che fumare poco, insomma mettetela come volete. Però secondo l'Eurobarometro, nell'ultimo sondaggio, la percentuale dei consumatori di tabacco fra gli italiani è scesa al 21%, in fondo alla classifica europea, poco prima dei finlandesi 19%, degli svedesi 11%, sotto la media europea che è del 26%. Bravo gli italiani che hanno cominciato a smettere di fumare. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo con Si può fare. A dopo. Ci sono notizie di cui nessuno parla mai. Ci sono notizie che restano sempre nell'ombra, notizie che soffrono perché non godono mai delle luci della ribalta. Che fine avranno fatto? Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, con Leonardo Manera e Daniele Ceva. Il sabato alle 14.30 su Radio 24. Lei, Daniele Ceva, ci sarà? Certo, e lei, Manera? Contro voglia. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. La conosce? No. Ah, ebbene. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buon sabato a tutti. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo numerosi. Oggi Milano, Monterosa. Buono, c'è un po' di sole, mi sa che stanotte ha piovuto perché avevo, sì, il motorino completamente in zuppatello, però fa freschino, non si capisce niente con questa cosa del clima. Vengo dalla Sicilia, sono stato tutta una settimana in Sicilia, beh. E sempre per presentare Forse in te io insisterei, ma era strano, un po' pioveva, un po' faceva freddo, poi improvvisamente faceva caldissimo, diciamo non ci sono più le mezze stagioni, bisogna così iniziare con una banalità di sabato mattina. Speriamo che non piova, almeno dalle parti di Venezia, perché oggi prende il via la biciclettata da Venezia a Torino per sostenere il progetto Vento 2015, il tour in bici per costruire la pista ciclabile più lunga d'Europa. Sai che c'è un progetto del Politecnico di Milano, ne parleremo in chiusura di trasmissione. Radio 24, tra l'altro, certo, seguirà tutto questo evento. È una cosa bellissima, un progetto per costruire una pista ciclabile meravigliosa da Torino a Venezia lungo il Po. Un sacco di attività turistiche, commerciali, bellezze da scoprire, eccetera, eccetera. Ci sono solo dei pezzettini, però va costruita tutta la ciclabile. Questo che, è questo che mi chiedevo: è continua o è come le piste ciclabili in molte città che tu hai un sacco di chilometri, però tra un chilometro e l'altro ci sono delle voragini, autostrade e cavalcavia dove passano i tir, e tu dici adesso come passo con la bicicletta? Adesso è così, adesso è così. Il Politecnico di Milano è capofila di questo progetto, che invece vuole unificare il tutto, ma vi ripeto, ne parleremo in chiusura di programma, cioè tra più di un'ora, un'ora e mezza circa, con l'inizio di questa pedalata a sostegno del progetto Vento. 800 24 00 24, cari ascoltatori, però insomma, oggi siamo alle prese con gli impresentabili, non c'è niente da fare, la puoi girare come vuoi. Cioè dai, hanno rieletto Blatter e giù. Giù critiche. Giù critiche, beh, insomma. Ma anche perché Blatter che venga ritenuto non adeguato, forse sbaglio, io sono come sempre lo stupido dei due, ma mi sembra che è una cosa quasi dagli anni 90 che si dice. Che, che cosa sta succedendo? È sempre quasi più impresentabile. È presidente della FIFA. O sta migliorando? È questo che mi chiedo. Ah, tu dici che addirittura magari so, è un po' migliorato. Non lo so. Non credo. L'FBI non sarebbe d'accordo. O forse ci si abitua all'impresentabilità. Forse è questo il problema. Che se tu sei impresentabile, ma continui a presentarti, evidentemente lentamente diventi presentabile. Per tutti quelli che l'hanno votato, evidentemente era super presentabile, ma così anche per quelli che voteranno De Luca, è presentabilissimo anche lui, ma lì è un'altra vicenda. Sono l'impresentabile della commissione antimafia, vicenda spinosa anche lì, però. E diciamolo anche molto tranquillamente, la cosa che un po' preoccupa è il fatto di dire io non lo so, non sto dicendo finché uno non è condannato ci mancherebbe altro, c'è la presunzione di innocenza ed è corretto così, però una scelta in un momento storico come questo, dove si continua appunto a parlare di casta, di problemi della politica, ma non lo presentare, non ti viene proprio voglia di dirlo un po' semplice. Non è che sto dicendo però uno dice io non lo so, nel dubbio pro cittadino direi per una volta, e ovviamente in dubio pro reo è la regola ed è giusto, perché ripeto, finché c'è il dubbio uno è innocente. Ciò non toglie che in un momento politico come questo, se uno non è proprio specchiato, oddio, specchiato forse dovrebbero andar via tutti, di specchiato non c'è neanche uno. Dice che prenderà 100.000 voti in più dopo questa cosa, non lo so, mi sembra una previsione la domanda forte. È dove li prende, però ma comunque io ce l'ho un impresentabile in meno, cioè una buona notizia su questo fronte, l'ho già detto prima in rassegna stampa: Cuba esce dalla lista dei paesi terroristi che sostengono il terrorismo secondo l'America. Finalmente possiamo dirlo, perché insomma che Cuba col terrorismo non c'è, un tubo, esatto. Se ne sono accorti anche gli Stati Uniti. 800 24 00 24, cari ascoltatori, aggiungete se volete in chi c'è in cima al vostro concetto di impresentabilità oggi. Quindi politici, membri del governo, familiari, fratelli, sorelle, suocere, io lo dico sempre, perché chiediamo allargando il termine dell'impresentabilità, quello che volete dirci sull'impresentabilità, ovvero chi sono per voi i più impresentabili. Possiamo tranquillamente parlare di politica, di sport, di qualunque, se fate sport, calcio, se siete iscritti a qualche federazione, volete insultare pubblicamente Blatter, diciamo con parole consentite, fatelo, cioè sfogatevi, siamo qua, non c'è problema. 800 24 00 24. Adesso però cominciamo con la Francia, perché questa settimana partiamo con un si può fare all'estero. Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho méchu, bon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous. rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. E allora sulle note di, non so se si dice Stromae, Strome, come si pronuncia, adesso lo chiediamo ad Andrea Paracchini, giornalista italiano che sta in Francia. Ciao Andrea, buongiorno, ben ritrovato. Come lo pronunciamo? Stromae. Ah, perfetto, fantastico. Un cantante che abbiamo conosciuto in Italia circa un anno fa, un po' di più. A Sanremo. Con quella... Fazio, sì, che ce l'ha presentato, un artista straordinario. Una bella performance e da allora è entrato nei nostri cuori. Andrea Paracchini, per parlare di che cosa? Di una legge che è in corso di approvazione, è stata approvata alla Camera in Francia e che insomma ha avuto eco anche in Italia, una legge contro lo spreco alimentare. Insomma, se ho capito bene, i supermercati, se questa legge passerà, non dovrebbero più, non sarà più consentito che buttino via, diciamo, le eccedenze alimentari, ma dovranno donarle a chi fa beneficenza, eccetera eccetera. Andrea, intanto raccontaci un po' come è arrivata la Francia a questa legge che sa, diciamo, di legge di frontiera nel mondo, perché una cosa del genere mi pare che non ci sia da nessun'altra parte. Allora, più o meno, nel senso, si tratta anzitutto di tre emendamenti che fanno parte della legge sulla transizione energetica che è in discussione in questo momento. E questa cosa è, e allora, la legge, gli emendamenti in pratica impongono l'obbligo alle grandi superfici di più di 400 metri quadri di donare gli invenduti quotidianamente. Okay. Si tratta di un progetto di... Questi emendamenti sono nati in realtà da un rapporto parlamentare in cui si parla parecchio di Italia, della legge del buon samaritano che esiste in Italia, sì, dal 2003, sì, sì. Ed è ispirata anche a quello che hanno fatto i belgi, per cui ottima idea di cominciare con Stromae, che è cantante belga, perché la regione Vallonia aveva introdotto il febbraio del 2014 una norma simile che imponeva quindi ai supermercati di donare gli invenduti. Ecco, sì, quindi diciamo intanto fa piacere che in Francia addirittura si citi la legge italiana del buon samaritano, che però ha dei limiti, nel senso che fino ad oggi non si è mai riusciti a mettere a sistema questa questione della lotta allo spreco. Adesso questa diciamo legge francese sembra fare uno step in più, no? Cioè le superfici, dicevi, più di 400 metri quadri? Esatto. Quindi diciamo gli ipermercati probabilmente, sì, i negozi un po' più grandi. Sì. Non potranno più come dire, buttar via, perché quello che succede oggi, Andrea, tu che ti occupi di sostenibilità da molto tempo, cosa succede con, per esempio, con l'invenduto alimentare? Sì, sono dal punto di vista delle scene abbastanza violente, se possiamo uso questo termine, nel senso che per evitare di incorrere in sanzioni i supermercati, ma questo lo fanno anche i panettieri e i negozianti, gettano la candeggina sui bidoni la sera quando li mettono all'esterno del supermercato, per evitare che quelli che qua si chiamano i glaneur, cioè quelli che vanno a rovistare nelle pattumiere, possano portarsi del cibo. Sono scene violente, viste, filmate in camera, con la camera nascosta. Ma questo è legale? Ma per quale motivo lo fanno? Sì, soprattutto, nel senso che gli dà fastidio che lo svolga, o lo fanno proprio perché per evitare sanzioni, perché oggi rischiavano sanzioni. Detto questo, ogni supermercato in Francia si stima che butti 200 tonnellate di cibo all'anno. Detto questo, gli stessi supermercati francesi oggi sono il principale donatore del banco alimentare in Francia, cioè sì, che il 30% viene già dai supermercati. Quindi il meglio e il peggio, diciamo, riuniti insieme, nel senso esattamente. Sono i principali donatori perché sono anche i principali luoghi, anche se magari non è colpa loro, nei quali però di fatto il cibo si spreca o rischia di essere sprecato, tanto che in pratica sì, diciamo che in Francia e a livello europeo più o meno le cifre sono più o meno simili, nel senso il 67% dello spreco viene dalle famiglie, i dettaglianti sui mercati sono in realtà in una parte marginale. Quello che è fastidioso nei supermercati è che gran parte di questo invenduto è, da una parte, i prodotti quelli consumare preferibilmente entro, che sono in realtà ancora buoni, ma ma c'è questa dicitura consumare probabilmente entro che li rende meno appetibili, e l'altra cosa sono gli impresentabili, come ne parlavate prima, sì, ossia la frutta e la verdura fuori calibro. Gli supermercati hanno un po' l'industria agroalimentare hanno abituato all'idea che la carota deve essere dritta, perfetta, arancione, senza smagliature. Questo fa sì che tutta quella frutta che è fuori calibro difficilmente si vende, tutti la lasciamo un po' sul banco e quindi a fine giornata viene buttata. Allora, certi supermercati avevano già iniziato a fare degli sconti, delle promozioni. Sì, sì, insomma, sì. Il grosso lo spreco viene da lì, sostanzialmente. Vedi, nella nostra lista degli impresentabili potremmo aggiungere anche questo, cioè frutta e verdura che viene considerata impresentabile, quindi risulta difficile da vendere, ma questo sì che è una roba veramente impresentabile. Cioè, non dovrebbe esserci questa cosa qua. E poi c'è purtroppo. Ma io, però, forse sono io che sono stupido, ma perché viene buttata la candeggina? Perché tu prendi la multa se qualcuno va ai tuoi cassonetti e prende la roba da mangiare? Esatto, era così, che ci sono delle regole di smaltimento dei rifiuti che impongono un certo tipo di trattamento, e se quindi anche adesso quando questa legge passerà è previsto che si mettano in piedi delle catene di logistica in cui il supermercato sceglie l'associazione a cui donare, che viene a prenderla col camioncino, con tutte ovviamente le implicazioni che ci vanno, nel senso che deve acquistare un camion frigorifero, le celle, insomma non è ecco, appunto, secondo te, Andrea, cioè, facciamo una previsione: questa legge che è passata per ora all'Assemblea Nazionale, deve passare ancora nell'altro ramo. Tu sei, diciamo, ottimista? Perché spesso sappiamo che la Francia, messaggi simbolici al mondo ne manda, cioè anche attraverso delle leggi, delle iniziative poi concrete. Poi non sempre è facile essere all'altezza di questi messaggi che vengono lanciati. Per esempio, i supermercati hanno protestato questa cosa che li comporterà, insomma, degli oneri, degli obblighi in più. Supermercati sì e no, nel senso che hanno semplicemente segnalato questo, che dar la colpa ai supermercati dello spreco era sbagliato, dal momento che le statistiche europee mostrano che lo spreco principale si fa nelle case dei cittadini, non nei supermercati. Il banco alimentare non era troppo entusiasta, e anche certe associazioni, perché hanno detto: attenzione, qua ci mettete a dover gestire, spostate il problema dei supermercati a noi, ci mettete con una quantità di cibo micidiale da gestire, e noi siamo attrezzati per distribuirlo, non tanto per raccoglierlo. E quindi veramente c'erano molte associazioni che hanno detto: attenzione, insomma, non vorrei che dovremmo trovarci il giorno da domani con problemi giganteschi di logistica da dover gestire, sì, e quando abbiamo già un sacco di gente da sfamare, ed è quello il nostro obiettivo principale. Poi sul fatto che passi o meno, io ricordo che l'ultima volta che mi sono collegato con Si Può Fare era per parlare dell'emendamento sull'indennità per la bicicletta. Sì. La settimana scorsa ha rischiato di saltare perché la ministra, nuova ministra dell'ambiente, aveva deciso di stralciarlo dal decreto. C'è stata una fronda dei parlamentari che hanno deciso: no, l'indennità resta. Però, appunto, questo per dire che in Francia, appunto, sempre ottimi annunci, poi bisogna seguire l'iter parlamentare, l'approvazione della legge ed eventualmente l'arrivo dei decreti attuativi. Non so perché, ma questa cosa mi sa che ce l'abbiamo in comune, Italia e Francia. Sì, è un problema di tutti. E tra l'altro significa che dobbiamo sentirci spesso, direi, perché non è mai detta l'ultima parola. Senti, Andrea, vogliamo chiederti anche un'altra cosa, visto che parliamo, abbiamo l'occasione di parlare con te. Questa settimana, un po' meno, ma insomma in questi giorni, si è discusso molto della questione delle quote dei profughi. La Francia è stata tra i primi a dire: attenzione, ferma, non siamo proprio d'accordo su questo. Io ho cercato di capire, di interpretare il pensiero dei francesi, degli inglesi e degli spagnoli, e mi sono dato questa spiegazione. In Francia gli immigrati, gli stranieri, sono molto di più che in Italia. Da noi siamo circa al 4% della popolazione, in Francia siamo, ora non so, a seconda delle statistiche, credo che siamo oltre il 10%. E questa è una spiegazione possibile del rifiuto francese? Come l'avete vissuta questa questione delle quote? La questione delle quote è stata vissuta in maniera abbastanza... La gente è rimasta, i media e i cittadini sono rimasti un po' perplessi di fronte alle posizioni del governo e del presidente, perché appunto c'è stato questo rifiuto delle quote, ma dicendo: no, ma assolutamente bisogna trovare un nuovo sistema ragionato, equo e solidale, ecco, sono questi i termini utilizzati, per distribuire i richiedenti asilo. E quindi delle quote? No, non delle quote. Quindi, vabbè, insomma, un sistema ragionato, ecosostenibile, assomiglia delle quote nella logica di tutti. Allora, la questione infatti riguarda non tanto gli immigrati, ma quanto appunto, e questo è un po' appunto la ragione della complessità della situazione, non si sta parlando di migranti in generale, sta parlando di richiedenti asilo in, però nel computo è chiaro che ogni stato ci mette quelli, la quota di stranieri che ha già, insomma, questo, esatto, c'è una quota, e il discorso era che si riguardava i migranti che arrivano in questo momento a frotte nel Mediterraneo, e i siriani che sono fuggiti dal loro paese in guerra e sono rifugiati nei paesi vicini, quindi le quote riguardavano quel tipo di migranti in particolare. La Francia dice, per esempio, riguardo ai siriani, diceva ne abbiamo già accolti 5.000, salvo, esatto, che in questo caso si stava parlando di richiedenti asilo inviati al commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, e di questo tipo di richiedenti asilo ne aveva accolti finora soltanto 450, adesso la sua quota è di 2.700. Ovviamente sono cifre importanti, ma c'è poi da dire questo, che la quota effettivamente rispetto alle classifiche, oggi la Francia è il secondo paese che dovrebbe accogliere il numero più importante di questi richiedenti asilo. Se però si fa, qualche giornale francese qui ha fatto il calcolo, per esempio mettendo questa quota in posizione del prodotto interno lordo, sì, sì, le quote nascono così. Esatto, e in questo modo ci si rende conto che in realtà la Francia, dal punto di vista del prodotto interno lordo, per esempio, è il sesto paese in classifica che ne riceverà di più, dal punto di vista della popolazione addirittura non è neanche nei primi 10, quindi questo per relativizzare un po' questo fardello che sembra si voglia mettere sulle spalle della Francia. La difficoltà è probabilmente legata al fatto di questo dibattito in questo momento, è che la Francia la Francia ha un sistema ha un diritto d'asilo estremamente contestato, visto che accoglie pochissime persone. Si pensi che l'88% degli eritrei si vede rifiutare il diritto d'asilo in Francia e finiscono in Svezia, in Gran Bretagna, per quello che poi li ritroviamo a Calais che tentano di saltare sul traghetto di nascosto. E questa legge del diritto d'asilo in questo momento è in discussione e i criteri vogliono essere ulteriormente inaspriti. Figuriamoci se arriva l'Europa, arriva l'Italia, esatto, che dice lo decidiamo noi chi sono i profughi e poi ve li mandiamo. Apriti cielo. Grazie Andrea Paracchini, prego. Staremo a vedere. Buon sabato. Mille. Il collega da Parigi che, come avete sentito, ci ha fatto un riassunto della settimana francese. Bella la legge contro lo spreco, è bello anche che Carlin Petrini di Slow Food ha detto anche in Italia ci vuole una legge come quella francese. In Francia, ci stava dicendo Paracchini, hanno preso ad esempio la legge del buon samaritano che c'è già in Italia, cioè, quindi, insomma, ci guardiamo tra cugini francesi, ci stiamo inseguendo, è un inseguimento. E tra poco parleremo ancora di spreco con la festa di cittadinanza attiva il prossimo fine settimana, che mette al centro proprio la lotta allo spreco. Ci fermiamo tra poco. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti cari ascoltatori. 800 24 00 24 vi aspettiamo anche per raccontarci, insomma, cosa c'è in cima al vostro concetto di impresentabilità, cioè i vostri impresentabili, anche i vostri impresentabili in famiglia. Sì, la suocera che si mette le dita nel naso, questa è proprio una scena orrida che mi è venuta in mente così. Anna da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Anna, sì, e chiamo da Istrana. Sì. Noi proprio perseguitando il progetto del Buon Samaritano, sì, quest'anno siamo partiti col progetto Recupero Eccedenze Alimentari. Sì, certo. E praticamente in collaborazione con la ditta che fornisce i pasti caldi alle scuole elementari. Ok. E con la Caritas riutilizziamo i pasti che non vengono utilizzati a scuola. Sì, come? Allora la Caritas, perché abbiamo cercato degli sponsor ma non siamo riusciti, per trovare i contenitori, perché c'è tutta una normativa, certo, a livello igienico che bisogna rispettare, quindi non è così facile. Non è banale, insomma, prendere un pasto, un cibo, venduto, non utilizzato, va tenuto nelle condizioni di sicurezza igienica, perfetto, certo, e quindi è consumato velocemente, quindi, tra l'altro, sì. Sì, perfetto. Allora, i pasti a mezzogiorno di solito ci sono l'orario in cui la scuola sa a che ora finisce l'orario, sì, del servire il pasto. Quindi tramite una rete di volontari, perché anche quella è una cosa importante, sì, e tramite questa rete di volontari ogni giorno, nei giorni che ci servono, perché non tutti i giorni settimanali si vengono serviti i pasti nelle nostre scuole, nei nostri paesi, vengono praticamente portati a dei nuclei familiari, sì, che ne hanno bisogno. Selezionati dalla Caritas, immagino, eccetera, eccetera. Sì, ma, in base, sì, a una lista di bisogni locali. Anna, una legge come quella francese le piacerebbe ci fosse anche in Italia? Una legge non ancora approvata, allora, ricordiamolo, contro lo spreco, che diventerebbe reato lo spreco di cibo. Allora, bisognerebbe che ci fosse anche alle spalle, come diceva Andrea, sì, anche la rete di distribuzione, sì, perché sennò ricade sul sistema che attualmente, giusto, si occupa, giusto, già delle... Lei dice, noi lo facciamo, siamo volontari, però se nessuno ci dà una mano nella logistica rischia di diventare, insomma, uno scaricabarile, un peso poi su qualcuno. Perché è vero, non è facile, è nel, sì, senso di dire, noi per attivare tutto questo abbiamo dovuto avere una rete di volontari, sì, che ci fosse disponibile nei giorni, quindi con delle sostituzioni più, cioè, di una cosa scientifica, caso... non può essere una cosa lasciata così alla libera iniziativa, no, giustamente, no, anzi grazie Anna, per quello che fate, grazie mille, ci salutiamo qua. 800 24 00 24 anche in questo caso impresentabile è proprio questo, lo spreco di cibo, e anche il fatto che, come diceva Anna, i volontari lo fanno così in solitudine, senza che ci sia un sostegno da parte di nessuno, certo, logistico, sì, i mezzi anche per trasportare queste cose, eccetera eccetera. Ci vuole, la cosa che incuriosisce sempre è che è tutto sempre molto complicato, perché uno si immagina, sì, ma invece che buttarlo via, diamolo a chi c'ha bisogno, è che il passaggio da diamolo diventa organizzare, se non hai il camion frigorifero, e questa cosa è più per una questione di dimensioni, perché se lo portassi tutto più sul piccolo sarebbe tutto molto comprensibile, no? Uno dice, ok, qui mettiamo in un posto il cibo in esubero, chi ce l'ha bisogno lo verrà a prendere. Invece non è così. Però è sempre un po' un peccato. 800 24 0024, traffico, torniamo tra un attimo. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, chiamateci e raccontateci chi c'è in cima alla lista degli impresentabili. Chi è il vostro impresentabile? Volete chiamare per lamentarvi della candidatura di Vincenzo De Luca in campagna dopo che è stato inserito nella lista degli impresentabili dalla commissione antimafia? Volete chiamare per lamentarvi di Blatter, che è stato rieletto alla FIFA impresentabile anche lui, o per raccontarci casi di spreco di cibo davvero impresentabili e intollerabili? 800 24 0024. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Abbiamo scelto Mengoni, Marco Mengoni, perché il testimonial di SprecaPO, la festa di cittadinanza attiva. Ciao Alessandro Cossu, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Per lanciare questo appuntamento che ci sarà a Spoleto dal 5 al 7 di giugno, quindi il prossimo fine settimana, che seguiremo come Radio 24, anche un'iniziativa concreta contro lo spreco. Alessandro, cosa ci sarà a Spoleto? La seconda edizione quest'anno, ci saranno tante belle cose, ve lo posso assicurare. Noi alterniamo in questa festa momenti di approfondimento con i classici eventi, che però promettiamo non dureranno mai più di 3 ore, con tantissimi laboratori e workshop gratuiti con cui imparare proprio a lottare ogni giorno contro gli sprechi, ma non solo alimentari, sì, in di tanti tutto. Ambiti. È vera una cosa, devo dirlo, che secondo la FAO a livello europeo, per esempio, si sprecano 180 kg di cibo a testa, ma il 42% avviene proprio all'interno di casa, quindi non sono solo i supermercati i luoghi dello spreco, ma purtroppo anche le nostre case. Voi, Alessandro, alla Fresta di Cittadinanza Attiva Spreca PAO, darete appunto anche lezioni, dimostrazioni concrete su come fare a diminuire questi sprechi, coinvolgendo anche, insomma, persone, personalità, ospiti. Ci vuoi anticipare qualcosa? Poi... Allora, anzitutto dico, perché è appassionato di cucina e lo conoscerà, perché è un volto tra i cuochi, diciamo, non tanto di moda, ma davvero molto bravo, Giorgione, molto legato come ai no? territori. Il nostro mitico Giorgione, anche noi a Si può fare l'abbiamo avuto, perché l'abbiamo sentito, è un grandissimo. Sì. Un grandissimo personaggio. Lui sarà al centro di Due Show Cooking, con cui dimostrerà proprio come recuperare alcuni dei cibi, perché uno dei problemi principali che ci vengono segnalati è quello della le persone hanno un senso di repulsione nei confronti del cibo che resta o degli avanzi, e quindi noi vogliamo lottare anzitutto contro questa percezione, perché molti dei cibi che buttiamo sono in ottime condizioni e si possono usare tranquillamente. Polpettoni, cose, cioè quando uno è bravo a cucinare con gli avanzi fa delle cose strepitose. Però quello è facile, bisogna insegnare anche a chi non è bravo a cucinare, sì, a usare gli avanzi, perché tutto. Sennò siamo quelli come me, sennò che sprecano, ovviamente, che invece non che sono non... bravo a cucinare, quindi non so che cosa farmene di mezza albicocca un po' maccatella. Perfetto, e noi cerchiamo di dare degli esempi molto banali come questi su come utilizzarla per fare delle torte, rimanendo sull'albicocca, o anche su come appunto utilizzare alcune delle cose che noi di solito buttiamo abitualmente, come le bucce delle melanzane o delle patate, per farci delle ottime fritture. Anche una cosa sta tornando di moda, per fortuna. Ma come vi dicevo, non parliamo solo di quello, ma parliamo anche per esempio di recupero di beni immobili abbandonati, di cui avete parlato anche voi nei mesi addietro, di un nostro progetto disponibile. Presentiamo la mappatura italiana, presenteremo un'app con cui i cittadini possono segnalare gli edifici abbandonati in tutta Italia. Questo è importantissimo, tra l'altro noi stessi vi abbiamo accompagnato e seguiti, sì, in questa iniziativa che verrà presentata proprio il 5, 6, 7 giugno a Spoleto. Alessandro Cossu, grazie per ora per essere stato con noi. Grazie. Ci risentiremo la settimana prossima, nel weekend. Grazie mille. Doppia puntata, doppio appuntamento con Cittadinanza Attiva e Spreca PAO. Noi ci risentiamo dopo il GR. Voglio dirvi solo questo: secondo Tonio Monda è impresentabile su Twitter chi sta a tavola con lo smartphone in mano. No. Vero? Non sono d'accordo, ne parliamo dopo. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. questa è Si può fare, questa che avete appena ascoltato, che abbiamo appena ascoltato, è Go Out dei Blur, canzone segnalata da Valentina da Mantova. È una canzone tratta dall'ultimo album dei Blur, The Magic Whip. Lei ci scrive: mi piace molto il ritmo scandito di questo pezzo e poi con l'estate alle porte viene proprio voglia di uscire, ovvero go out. Ci siamo lasciati un po', ci siamo un po' fatti prendere, giustamente l'estate sta arrivando, abbiamo tutti voglia di uscire, siamo chiusi dai weekend di settembre in questo studio e quindi è un po' anche colpa nostra. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica, sia che voi siate dei compositori o dei musicisti, che quindi li abbiate scritti voi dei Si può fare in musica, sia che voi vogliate segnalarci delle altre canzoni che in qualche modo secondo voi riassumono il concetto di Si può fare. Lo potete fare sui nostri account social, ovvero su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sull'account Twitter della trasmissione, che è chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Questa mattina, cari ascoltatori, all'800 24 00 24 vi aspettiamo anche per commentare con noi intanto l'approvazione alla Camera, ma in Francia, di una legge contro lo spreco alimentare, e che è un passo dal diventare un reato. Siamo partiti da qua questo sabato mattina, ma poi anche per raccontarci chi è in cima alla lista degli impresentabili secondo voi. C'è un tweet sibillino di Ferruccio De Bortoli, così lo voglio leggere, ex direttore del Corriere, direttamente a noi, no, che però dice: impresentabili, la legalità in Italia è un concetto sacro purché si applichi per gli altri. E devo dire che non so se si riferisce a De Luca, al PD eccetera, però è abbastanza vera questa cosa. Ma secondo me è vera, e soprattutto è riferita un po' in generale, nel senso che come sempre noi puntiamo il dito, però poi se uno invece in famiglia bisogna non fa lo scontrino anche, di solito non è che uno dice sei proprio impresentabile. No, esatto, va bene così. Invece se c'è un concetto di impresentabile vale per tutti. Allora stamattina, cari ascoltatori, vi aspettiamo per raccontarci chi è secondo voi il più impresentabile di tutti. Potete sfogarvi su Blatter, potete parlare di Luca, potete parlare di quello che vi pare. Tra l'altro, come sempre, oggi in palio mettiamo due cose: la guida breve di Expo, Sole 24 Ore partner editoriale di Expo, quindi la guida breve, e l'itinerario d'autore tra il sito espositivo e la città, due piccole ma gustose guide che insomma mettiamo in palio per la telefonata più bella a giudizio in sindacato. Esattamente, nostro, poi abbiamo parlato anche della manifestazione SpreKO che sarà a Spoleto il 5, 6 e 7 giugno di quest'anno. Ricordiamo sempre perché il 6 giugno, che il mese di giugno è anche il mese dei Pride, e quindi il 6 giugno si inizia con diversi Pride, e te lo dico anche un po' per avvisare sia i nostri ascoltatori, in realtà è anche un po' per avvisare Alessio, che insomma mi occuperò sicuramente molto di questi Pride. Ho capito, stai andando. Esatto, no, però è importante perché il 6 giugno iniziano dei Pride, c'è un Pride molto importante a Pavia, c'è il Pride a Verona e c'è il Pride a Benevento. Non ci tengo a dire questa cosa. Mi fai già soffrire la nostalgia adesso, se mi dici così. Mi devo già preoccupare. No, però quello che volevo dire è che comunque sono tutti Pride da sostenere. Il Pride di Pavia ha avuto questa settimana diverse notizie, perché un gruppo di skinhead ha fatto una pagina su Facebook dove mostrava un logo con un omino tutto nero che massacra di botte un omino rosa. Se questo è il loro modo di comunicare, infatti lo stesso questore gli ha fatto ritirare il logo, e non mi sembra il modo per difendere la famiglia tradizionale, che peraltro va benissimo la famiglia tradizionale, nessuno ha niente contro la famiglia tradizionale, e dare dei diritti ad altri tipi di famiglie che hanno anche loro diritto ad avere dei diritti non lede minimamente i diritti delle famiglie con tutti questi diritti. Ovviamente siamo persi per ripetere anche la cosa che dicevi tu, più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno. Perfetto. Giovanni da Ragusa, buongiorno e benvenuto in questo momento caotico di diritti. Giovanni, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Eccoci. Un saluto qua particolare al nostro amatissimo Carlo. Grazie. Allora, a proposito di Carlo, stanotte ho sognato. Non fai teatro, vero Carlo? Beh, in che senso? Sì, lo faccio, volta, sì. Lo faccio, non ho fatto tanto. Ti ho sognato che recitavi nella commedia Ciao Rudy, al posto di Marcello Mastroianni. Se mi dici così mi commuovo, accanto a te c'erano quelle grandi attrici di allora: Giuliana Loiodice, Olga Villi, Paola Pitagora, Paola Borboni, Diana Orfei, Raffaella Carrà, eccetera eccetera. Scusi Giovanni, ma non per farmi fare male di notte Sonia Gabardini, no? Perché c'è io sono felicissimo, emozionato e lusingato. Lui essendo attore, sto scherzando, essendo attore io entro nei sogni altrui. Fai teatro allora? Sì, nella vita, ma assolutamente. Ma se volete vi lasciamo soli così dici allora veniamo al... Si è emozionato, Giovanni, perché... Sì, veniamo al tasto dolente. Qual è il tasto dolente? L'impresentabile è il mio caro vecchio Milan. Ah, ah. Ma non nel senso di Alessandro, ma nel senso di Milan Calcio. Sì, la squadra più titolata del mondo, la più blasonata, la più amata, ridotta in queste condizioni per colpa di chi? Del nostro Silvio. Beh, che non vuole tirare fuori neanche una, non vuole cacciare il grano, però adesso dà la responsabilità. Allora vendolo ai cinesi, vendolo ai thailandesi, vendolo non so ai giapponesi, vendolo agli indiani, ma vendilo. Però non è che potete lamentarvi, avete avuto un presidente, nel senso che qualcun altro magari può lamentarsi per altre questioni, però che non abbia finanziato la squadra e che non abbia reso la squadra lo squadrone più blasonato, mi sembra un po' ingiusto, un po' devo generoso, dire, un po' ingeneroso. Però quest'anno Grande Milan sia nato con lui. Sì. No, ma c'era il Grande Milan è nato con Nerio Rocco, ma con Gianni Rivera, con Schiaffino, Giovanni, con Giovanni, ma da tifoso del Milan a questo punto, l'arrivo del thailandese lì, non mi ricordo neanche. Sì, mi stanno bene tutti, tranne che... Cioè lei sarebbe contento comunque. Sì, felicissimo. Pensa che gli asiatici possano portare nuova linfa. Però vabbè, forse c'è anche delle responsabilità dei giocatori, o no? Beh, anche. Perché non è solo degli stipendi, insomma, una squadra non è fatta solo di stipendi e di soldi cacciati dal presidente. È irrimediabilmente sconsolato, sì, non c'è niente da fare. Non è una vita terribile, cioè il Milan che va male e sogni solo Carlo Gabardini. Deve essere, mi spiace, però, sono molto Carlo vicino a te. Gabardini è una cosa seria, visto come è ridotto il Milan. Ti ringrazio moltissimo. Grazie, Giovanni. Molto. Buon sabato. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, grazie, ciao, buon ciao, sabato. Ciao. Allora, andiamo. Non era assolutamente concordato, anche perché io sono interista, quindi se l'avessimo concordato, perlomeno avrebbe tenuto all'Inter. Sergio da Pescara, buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Ciao a tutti. Volevo dire prima una cosa, se era possibile, nel senso, io ascolto due trasmissioni su Radio 24, si può fare e la zanzara, cioè gli opposti. Bravo. Allora volevo proporre alla direzione di invertire, diciamo così, gli orari, cioè si può fare tutte le sere e invece la zanzara solamente il fine settimana. Per me si può fare, oppure si potrebbe fare prima si può fare dalle 5 alle 6, no, dalle 5 alle 6 c'è il focus economico, no, dalle 6 alle 7, poi tra le 7 alle 8 la zanzara. Lezioni di palinsesto. L'estate si fa già, quindi anzi spero che quest'estate si rifaccia, insomma, si faccia. Okay, sono contento. Comunque non è che siamo opposti, siamo complementari, è un po' l'altra faccia della medaglia. Ma Sergio può influenzare quello che vuole. Certo. Sì, ecco. Quello che sto dicendo. Su cosa voleva intervenire? Ci vogliamo dire, bene, Sergio, sì, ecco, volevo dire che secondo me gli impresentabili veri sono quelli, gli elettori che votano gli impresentabili. Cioè nel senso, nel momento in cui so che una persona non può essere eletto o avrà problemi nel caso di elezione o è in odore di mafia, eccetera, eccetera, se la voto vuol dire che io sono il primo impresentabile, perché io in mano, diciamo così, il destino della regione. Mi sembra un punto di vista molto sano, se posso dire, perché in teoria, no, è vero, perché in teoria in un paese democraticamente pronto e maturo non dovrebbe esserci molto il problema degli impresentabili, perché è molto semplice che cosa si fa con gli impresentabili. Se nessuno li vota, gli impresentabili non si presentano più. E quindi è vero che sta tutto in mano a noi. Quindi mi sembra giusto il punto di vista. Poi ovviamente uno fa anche le sue valutazioni sul fatto di come mai qualcuno li presenti. Però è molto giusto quello che stai dicendo. Cioè il potere, abbiamo in mano noi il pallino. Esatto. Se ci rendiamo conto che ce l'abbiamo in mano noi, cambiare si può. Vorrei vedere se si presentasse, non lo so, le elezioni nazionali Papa Francesco e Totò Riina, chi dei due, insomma. No, non ci voglio neanche pensare. Sergio, hai detto una cosa straordinaria, ma potrebbe essere neanche un pareggio, tu dici? Non voglio neanche pensare al fatto che Riina potrebbe avere dei voti, magari non dico in più di Papa Francesco, ma no, qualche voto. E sicuramente ce l'avrebbe, perché che devi fare? Purtroppo è il ragionamento sull'impresentabile. È un derby, allora, difficile. Intanto, Sergio, grazie, dobbiamo andare sul traffico. Prendiamo atto, gli impresentabili sono gli elettori che votano gli impresentabili. Traffico. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato. Allora, intanto c'è Giorgio Fontana su Twitter che risponde a Tonio Monda, che aveva detto che per lui impresentabili sono quelli che a tavola stanno lì a guardare lo smartphone, che dice: ah, ecco perché De Luca è impresentabile, maledetto iPhone. Avevo detto anche che avrei risposto, sì. Nel senso che non sono così intransigente, capisco che se uno a tavola durante tutto un pranzo si sta sempre attaccato al telefono. Siete fastidiosi. Ma non trovo nemmeno questo fatto che se uno durante un pranzo controlla una mail o manda un sms o manda un whatsapp al proprio amore, questa cosa diventi improvvisamente il fatto di dire vabbè, allora puoi anche mangiare con il tuo iPhone se vuoi, perché lo facciamo tutti abbiamo dei momenti in cui addirittura è anche un'emergenza, e quindi non mi sembra. Poi se uno gioca a Razzle mentre pranza, quello è un altro problema. Per me è presentabile il fiorentino, che tra l'altro non si è mai presentato, ci scrive Clotilde al 349-238-6666. Fiorentino va da sé, Matteo Renzi. Esatto. Marina da Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Prego Marina, su cosa voleva intervenire? Sì, io sulla questione dei cibi e quindi dello spreco ho una domanda, una perplessità mia, e sì, mi chiedo, sì. Visto che c'è l'Expo e è dedicato proprio al cibo e alla ridistribuzione, sì. E non oso immaginare la quantità di cibo che giornalmente viene prodotto e non utilizzata. Quindi in questo ambito mi chiedo, ma è stato pensato come ridistribuirlo, come non buttarlo, come portarlo, che ne so, alla San Francisco? Giusto, giriamo subito questa doverosa domanda ai nostri amici Expo ottimisti o comunque diciamo Expo ingaggiati che di ci seguono. Sempre. Io credo che ci sia se sanno un qualcosa piano su questo. Sarebbe, direi che in tutto questo il padiglione svizzero è il padiglione più preciso, che mostra esattamente questa cosa, perché il padiglione svizzero ha fatto questa cosa, ha fatto dei silos, sì, uno pieno, vero, di mele, uno pieno di caffè, correggimi se sbaglio, uno pieno di acqua, e hanno detto prendete tutto gratuitamente quanto ne volete, ma ricordate solo una cosa: se prendete tutto voi non ce ne finisce sarà per gli altri. Subito. Ed è incredibile che mi sembra che dopo una ventina di giorni, quindi su 150 quelli che saranno, è già andato via una percentuale molto più alta, credo tipo intorno al 40-50%. Quindi è molto interessante, secondo me è l'operazione artistica, sì, forse più interessante, perché in effetti fra un po' finirà, e loro hanno detto che non riempiranno questi silos, quindi quando finiscono le mele, e mi sembra un bel modo per raccontare quello che sta succedendo a questo pianeta. Comunque Marina, grazie per averci chiamato. Vuoi aggiungere qualcosa Marina sul concetto di impresentabili? Vuoi giocare anche tu oppure... No, vabbè, sugli impresentabili chiaramente siamo tutti contrarissimi, ci mancherebbe, come si può sostenerli. Va bene, grazie. Volevo dire invece che non è la risposta che mi aspettavo quella che ho ricevuto. Perché il mio la mia domanda è il cibo cucinato. Sì, certo. Quello sì. Lo ma noi abbiamo girato la domanda, perché purtroppo non sappiamo, non essendo Marina, noi gli organizzatori di Expo, non sappiamo esattamente dove finiscono i polpettoni. Guardi, che avanzano il giovedì. Quindi glielo presente. Sì, esatto. Sì. Lo stiamo facendo andando presente in diretta. Grazie Marina, intanto gli giriamo la domanda e poi quando capiterà di intervistarli glielo diremo, perché è giusto. Io questa cosa non ci avevo pensato. In ogni posto dove si produce si distribuisce cibo, bisogna porsi questa domanda: che fare del cibo che non viene utilizzato? Quindi Expo, dove ci sono, credo, insomma, centinaia di ristoranti, ci saranno sicuramente, c'è tanto cibo, ha ragione Marina, certo, a porsi questa domanda. 800 24 00 24, ascoltatori vi aspettiamo. Adesso però è arrivato il momento di parlare di calcio alla faccia di Blatter. Scambio corto, limite dell'area, contropiede, catenaccio, lancio per il cross, doppio passo, rimane poeti, finta e tiro, rosa terra per un pelo e gol. Stop al volo, zona Cesarini, sganciamento e spinta dei terzini, tiro nel sette magico pallone, l'urlo del campione. Cronista, squadra, corte, pressing, incornata, scivolata, fallo tattico, punizione contro la barriera, disimpegno per il 10 che è scoppiato un po'. Viva il parroco, campo pesante, pallonetto e dribbling ubriacante, quattro volte azzurro in cima al mondo, il pallonetto tondo. Parliamo parliamo di calcio con qualcuno che la passione per il calcio ce l'ha per davvero, ce l'ha per davvero, e sono i tifosi della squadra Centro Storico Le Boschi in provincia di Firenze, che sono talmente tifosi che hanno deciso di rilevare la società, credo a un fallimento, e insomma l'hanno fatta crescere sulla base di cosa? Della loro passione e credo anche sostanzialmente di tante ore di tempo passate lì. Lorenzo si può fare. Giudici, dirigente del Centro Storico Le Boschi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Vi ringrazio per la chiamata. Ci fa molto piacere, insomma, in questi giorni in cui dobbiamo davvero riprenderci dallo shock di questi grandi elettori, grandi pirla, che possiamo dirlo, che hanno rieletto Blatter, cioè per la quinta volta al presidente della FIFA, uno che, insomma, se va bene è semplicemente un Matusalemme, se va male è un grande corrotto. Voi però avete una storia incredibile alle spalle, siete partiti qualche anno fa, da dove? Ma allora, diciamo, è una storia abbastanza lunga perché cerco di farla il più breve possibile. Noi nasciamo nel 2004, quindi sono più di dieci anni fa, come gruppo di tifosi, come gruppo ultras proprio. Noi andavamo a vedere le squadre maggiori, no? La Firenze, la Fiorentina soprattutto, e sentivamo un certo disagio, diciamo, per la passività e soprattutto per la distanza che sentivamo rispetto alla nostra squadra del cuore. Sì. In come stavano cambiando le pratiche del tifo, in come cambiava il rapporto con i giocatori, con la società. Cioè distanza fra tifosi e società. Distanza tra tifosi e società, ma anche più semplicemente distanza con i giocatori. Qualcuno di noi è un po' più vecchiotto e ricorda tempi dove i rapporti con i giocatori, ora non mi sembra impossibile, ma erano molto diversi. Si andava a mangiare insieme, per dirne una. Noi abbiamo delle persone che abitano a Grassi, no? Dove abitava Socrates, sì. Il campione brasiliano. Certo, abbiamo tutti una certa età. Socrates era un dottore e era possibile andare a suonare di notte a casa di Socrates per far visitare i figli malati. Era una cosa che succedeva abitualmente. Era anche Socrates, che era un personaggio abbastanza straordinario. Esatto, questo è eccessivo, però esatto, il rapporto con Baggio, per esempio, era un rapporto dove si andava a cena insieme. Certo. Non è uno scherzo, è una cosa vera. Baggio, anche perché far curare i propri figli da Baggio sarebbe stato un problema. Quindi giustamente con Baggio si andava a cena. Non è che tutti possono fare i medici. Al massimo potevi fare una preghiera buddista. Sì, andavo a dare a caccia all'epoca. Ma, e quindi da tutto questo, da questo, diciamo, disincanto, da questa preoccupazione, nasce una vostra un'iniziativa, un'affezione a questa squadra che allora si chiamava AC Le Boschi. Sì. Era una squadra di terza categoria. Sì. Che noi scoprì che è la serie più inferiore del calcio italiano. Sì. Possibile, che noi scoprimmo sul giornale regionale del calcio dilettantistico, che si chiama Calcio Più. C'era questo articolo scritto: Le Boschi si spezza ma non si piega, e aveva perso 8-2 contro un'altra squadraccia. Sì. Da città, ed era una squadra che aveva fatto 0 punti nel campionato, aveva preso 99 gol e ne aveva fatti 2. Disastro totale. Beh, bellissimo. Disastro 99 gol. Ma Le Boschi viene dal grande Le Boschi dei fratelli Cohen. Assolutamente, perché okay. Il motto di questi ragazzi, che erano fortemente ironici, era prendiamolo come viene. Certo, erano dei ragazzi che erano una squadra giovane. Avevano presa molto come viene. Sì, era una squadra assolutamente giovane, ma anche noi, il gruppo originario, di cui io addirittura non c'ero perché sono arrivato 2-3 anni dopo, era un gruppo molto giovane, si parla di 14-15 anni, cioè sì, età media, diciamo. Però lì cosa avete deciso di fare? Diciamo di sposare questa società in declino totale. Noi ci siamo presentati un giorno al campo, e ci eravamo già informati del fatto che il colore erano grigio-neri, del fatto che una squadra si chiamasse in un certo modo, Siamo presentati già con qualche rudimentale bandiera, col tamburo, che era quello che vedevamo fare e facevamo in Curva Fiesole a Firenze, e abbiamo iniziato a cantare per loro. E loro sono rimasti, immagino, sorpresissimi. Arrivano i tifosi per la squadra che ha preso 99 gol. Sì, loro sono venuti all'intervallo con fare anche un pochino risentito e minaccioso a dire: scusate, già noi, insomma, c'ha difficoltà in campo, non ce lo deve prendere anche. Pensavano che fosse una presa in giro. Sì, però è molto bella questa. I vostri tifosi. Scusa, è molto bello questa cosa, nel senso che delusi dal rapporto con una squadra maggiore come la Fiorentina o per una squadra di Serie A, voi dite: benissimo, allora noi andiamo a fare i tifosi per una squadra che ci vuole anche un po' più bene. Così è? Sì, allora non c'era proprio questa, non c'era questa coscienza e questa opposizione, fu fatto un po' per scherzo e molti di noi ancora sono grandissimi tifosi della Fiorentina. Ma certo, ma poi la fede rimane. Certo. Assolutamente, però diciamo un po' per gioco, un po' così. Fastidia. Io non lo so, è difficile spiegarlo. Però dove siete arrivati nel frattempo? Siete andati avanti perché questa passione è rimasta, diciamo, si è radicata, è cresciuta. E la squadra è stata anche promossa un paio di volte, credo. E in promozione. Allora, diciamo, c'è una trasformazione che facciamo nel 2010, nel senso che nel 2010, dopo che comunque non è stata persa una partita dal 2004, neanche una. No, addirittura dice, io conosco qualcuno di noi che dal 2004 a oggi ha perso 9 o 10 partite. Ed è insomma, quello che è stato più presente. Ma se la giocano in due, uno ne ha perse 9, uno a 11, no? Va bene. Niente, noi nel 2010 abbiamo deciso di fondare una nostra società. Sì. Quindi non è stato un fallimento, lì è stata diciamo una scissione sostanzialmente, anche per tutte le scissioni un po' dolorosa, sì. Perché come tifosi avevamo l'ambizione di in maniera un po' più consapevole di prendere in mano la società per renderla un modello di calcio più simile a quello che come tifosi noi avevamo sognato negli anni. E ci siete riusciti a 5 anni di distanza secondo te? Beh, siamo ancora a lavorarci, abbiamo fondato il centro storico Le Boschi su un'idea molto semplice, che era quella di trovare un modo di gestione delle risorse che fosse collettivo e che mobilitasse un numero più possibile ampio di appassionati, di tifosi. Ma i tifosi sono cresciuti nel frattempo? Sì, noi ora l'altro giorno abbiamo fatto la finale playoff di prima categoria in provincia di Pisa e abbiamo portato 400 tifosi che cantavano, cioè 400 tifosi con modalità ultras. Aspetta un attimo però, perché qua il giallo si infittisce. Hai in provincia di Pisa, cioè a casa mia, perché io sono di Pisa. Adesso facciamo caramba, Lorenzo. Com'è finita la partita? Abbiamo perso 2-0 contro il Donoratico. Contro il Donoratico, a Cascina però, cioè quindi fuori sede. E ci sarà un ritorno? Era la finale regionale. No, era la finale regionale. Finale secca? Sì, la finale secca. Quindi siete fuori? Sì, in realtà basterebbe vincere la finale provinciale che abbiamo vinto per essere proposti in promozione. Poi c'era questa finale regionale che stabiliva il ranking del repescaggio. Ma ce la fate o no andare in promozione? Sì, siamo cautamente ottimisti. Ah, vabbè. Sì. E quindi quante promozioni sarebbero state fatte negli ultimi anni? 3? Sarebbe la terza? Negli ultimi 5 anni abbiamo vinto la terza, la seconda e la prima categoria, diciamo, e ora andiamo in promozione. Sarebbe la terza promozione, sì. Bene. La quarta categoria che vediamo. La grande soddisfazione di quest'anno è che nel quintano di vita abbiamo vinto anche un campionato molto difficile che è lo Juniores Provinciale, che sono i bimbi, che il prossimo anno andranno a fare gli Juniores Regionali, che è un campionato... Ah, perché avete anche una squadra di bimbi? Abbiamo anche una squadra di bimbi, abbiamo una squadra femminile. Ah, questo è bello, che non è semplicemente una squadra. Senti, ma tra voi e Blatter c'è la FIFA, c'è proprio come dire, ci sono diversi ordini di grandezza. Tra voi e Blatter c'è la FIFA, mi sembra perfetto. Sì, proprio, cioè, sono due pianeti diversi, no? Però siete tifosi, seguite il calcio. E cosa hai pensato quando hanno rieletto Blatter? Me l'aspettavo, comunque, tutto il male possibile, nel senso che, insomma, naturalmente è l'esatto opposto dei valori che noi abbiamo. Quello sì. Ma credi, cioè, per esempio, questa questione dei mondiali di calcio assegnati, delle tangenti, cioè, adesso mi ricollego al discorso del calcio scommesse che è arrivata a lambire anche categorie appena sopra la vostra, perché credo che l'ultimo scandalo del calcio scommesse riguardi serie veramente... La Serie D, è incredibile che sia stata aperta la possibilità di scommessa in Serie D, è stato consegnare assolutamente... questo tipo di calcio alla speculazione più assoluta, è una scelta incredibile. Ah, cioè tu dici non bisognerebbe proprio permettere le scommesse di modo che il problema lo si risolva alla radice? No, sì, è una scelta incredibile, perché è un discorso lungo, però te lo posso provare a fare molto veloce. Cioè, come il problema è la sostenibilità del calcio, soprattutto del calcio di paese, del calcio minore, fino al calcio dilettantistico. Cioè, come funzionava il calcio una volta? Anche nelle serie minori, replicando il modello delle serie maggiori in piccolo, cioè c'era un presidente mecenate sostanzialmente che interveniva su un territorio, su una comunità con le sue risorse e naturalmente non volendo perderci oltre magari alla possibile passione sportiva, ai guadagni di visibilità, arriva e fa accordi con le amministrazioni. sostanzialmente arriva un costruttore su un comune, dice voglio costruire un centro commerciale, il sindaco dice benissimo, però ogni anno mi devi pagare un tot alle associazioni sportive e culturali della zona. Diciamo funzionava esattamente così, il sindaco si garantiva diciamo un suo giro clientelare, il costruttore costruiva e le società vivevano. Quando era più formalizzato il rapporto si basava sugli oneri di urbanizzazione, una parte degli oneri di urbanizzazione andavano alle società sportive. Ora naturalmente il modello con questa crisi del capitalismo è più difficilmente replicabile. Con gli oneri di urbanizzazione si chiude il bilancio comunale, si pagano i dipendenti, non si danno certo soldi alle società sportive, e le scuole calcio, i settori giovanili tendono a chiudere, le società falliscono, cioè il modello non funziona più. Ora naturalmente in Serie D, dove ci sono squadre di realtà comunque medio grandi ma sempre di calcio minore, che si trovano in un paradigma completamente differente da quello del passato, con le risorse che sono ridotte al lumicino e tutto, l'occasione del calcio scommesse è un modo che sta diventando sistematico per campare. Certo, per ma secondo te questo cambio è avvenuto perché? No, il cambio è strutturale per la crisi, perché in realtà sì, non ci sono più gli oneri di un cambio strutturale per la crisi, esatto. Certo. Senti, è molto interessante. Io spero che noi ti richiameremo, perché mi piace molto. E complimenti per questa idea, che sono i tifosi che ripartono e ripartono da zero scegliendosi un'altra squadra. Poi può rimanere la fede per la Fiorentina, però è bellissimo che voi in qualche modo, adesso lo dico con la parola brutta, come se fossi i mercenari tifosi, però in realtà invece è una cosa molto bella, che voi decidete di andare in un altro posto e dire ripartiamo dai tifosi. Quindi ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi, a presto. Ciao e andiamo in pubblicità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 9.40, di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ben ritrovati, 800 24 00 24, ci ha chiamato Marco Lucchini, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è il direttore, niente po' di meno che, della Fondazione Banco Alimentare. E che questo è il bello della radio. Abbiamo posto una domanda, un'ascoltatrice ha posto una domanda, sì. Dove va a finire il cibo che avanza a Expo? E adesso abbiamo, credo, una risposta. Sì, esattamente, la Fondazione Banco Alimentare ha stipulato un accordo con Expo in collaborazione con la Cascina Triulta, che è il padiglione della società civile, proprio per recuperare tutto quel cibo che ancora non è più vendibile ma è ancora perfettamente commestibile. Quindi noi tutte le giorni abbiamo contattato tutti i padiglioni, il settore della ristorazione, siamo in contatto con loro. Approfitto, se è possibile, dare anche la mail, chiunque può richiamarsi, può segnalarci, che è foodsavingexpo@bancoalimentare.it, e noi interveniamo quando appunto purtroppo avanza qualcosa. Sì, ripetiamo la mail che si è sentita male, foodsavingexpo@bancoalimentare.it. Sì. È mi così. Scuso perché sto andando col passante proprio fantastico. Ma meglio di così non si deve scusare, tutto perfetto. No, è sul passante, sta andando ad Expo ed è del Banco Alimentare. Avete qualche cifra già su quanto è stato recuperato? Abbiamo fatto per ora 7 ritiri, proprio perché il mese di maggio l'abbiamo dedicato al monitoraggio, però qualsiasi emergenza, come dire, la nostra ambulanza del cibo è intervenuta. Ma sicuramente abbiamo superato qualche migliaio, la migliaia di tonnellate. Sennò sarebbe un fallimento. La cosa più interessante, credo che invece abbiamo rilevato, che tutti si stanno comunque attrezzando per evitare degli sprechi. Poi purtroppo ci sono delle casualità, dei fattori che non sono imprevedibili, che li possono causare, ma mi sembra che tutti abbiano proprio attenzione a questo. L'importante è quello, mi sembra. Poi gli sprechi a volte ci sono, ma l'importante è che ci sia attenzione. Senta, Lucchini, scusi. È avere l'attenzione e sapere che se per caso succede qualcosa, qualcuno che si occupa è fortunato. Prima che cada la linea, volevo chiedere a questo punto un commento sulla legge che è in discussione in Francia, approvata alla Camera, per cui lo spreco alimentare diventerebbe reato. Che ne pensa? Allora, per l'inesattezza, diciamo che sono tre emendamenti, non è una legge, sono tre emendamenti che sono stati proposti. Io, noi, e lo dico anche a nome dei sì. banchi alimentari francesi, di Restaurant de Coeur, siamo estremamente preoccupati. È una legge che idealmente può essere fantastica, ma concretamente potrebbe scaricare sulle organizzazioni governative invece tutto il problema, che non sarebbero assolutamente in grado. Vi dico solo una cosa: in Italia la distribuzione stimiamo abbia 600.000 tonnellate all'anno di beni. Se da domani le nostre organizzazioni dovessero ricevere questo bene, dovrebbero buttarlo via. Quindi prima di pensare a questo occorre collaborazione e dialogo, come sta avvenendo in Italia col Ministero dell'Agricoltura. C'è un tavolo proprio su cui stiamo lavorando. Però mi scusi, 12. Lucchini, cioè avere un punto d'arrivo che sia una legge che appunto come quella in Francia, con tutti gli strumenti di cui lei parla, però... Sì. Sto dicendo che in Italia siamo molto più avanti dei francesi, perché dal 97, 98, 99 abbiamo due leggi fiscali che loro non hanno. 2003 legge del buon samaritano, è stata ripresa nel 2013. Stiamo realizzando un manuale di igiene e sicurezza. Cioè, in Europa noi siamo un esempio, l'Italia. È vero. Quindi che lo non mi farai è vero, prendere da questo erba del vicino e più buono della nostra. Noi abbiamo voluto, diciamo, parlarne. Questa mattina siamo partiti di lì, perché comunque è un passaggio importante, un paese che ci sta vicino. Però a onor del vero, Andrea Paracchini, il corrispondente da Parigi, ci ha detto che in effetti nel dibattito alla Camera in Francia è stata citata proprio la legge che diceva lei, quella del buon samaritano, che c'è in Italia da alcuni anni. Grazie per ora. Grazie mille. Grazie Lucchini. In bocca al lupo. Beh, molto interessante. In realtà anche che a volte non è facendo una legge dicendo che lo spreco è reato che si risolve il problema, perché giustamente dall'altra parte dice: se noi ci arrivano 600 tonnellate noi non sappiamo come gestirle, quindi bisogna forse prima trovare il modo per gestirle piuttosto che dire è un reato. 800 24 00 24. Traffico, tra un attimo torniamo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca senza coloranti o conservanti, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e ben ritrovati. 800 24 00 24. Prima di salire in sella alle bici da Venezia a Torino per il progetto Vento, ancora un ascoltatore, Francesco da Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e soprattutto a voi, a Carlo, ad Alessio. Grazie, buongiorno. Io volevo fare solo due parole rilanciandomi al discorso dello spreco alimentare. Per innanzitutto ringraziare voi, perché un anno fa più o meno ci avevate invitato a presentare il nostro progetto contro lo spreco alimentare. Certo, mi ricordo, era un'app. Ecco, Last Minute Sotto Casa. E grazie a voi, eravamo veramente appena partiti, mi piaceva testimoniare quello che stavamo facendo. Come sta andando? Benissimo, e ripeto, vi ringrazio davvero. Beh, perché siete stati... Ma è bellissimo questo, è un si può fare dentro un si può fare, perché anche noi possiamo fare e se possiamo aiutare siamo ben contenti di farlo. Ma sì, nel senso che dopo il vostro lancio, veramente siete stati i primi a mettere gli occhi su di noi, a lanciarci, diciamo, questo progetto consente appunto ai piccoli negozianti di quartiere di far arrivare le loro offerte quando hanno della merce in scadenza, chi abita a due passi con un semplice messaggio. Come ci ha portato adesso a più di 10 tonnellate di cibo che non sono state buttate, a 30.000 persone in giro per l'Italia che stanno usando Last Minute Sotto Casa. E soprattutto mi piaceva prima, quando si parlava dei problemi di logistica, in effetti andare a ritirare, giustamente quello che si diceva negli interventi precedenti, dei prodotti e consegnarli chiaramente ha dei problemi, bisogna avere costi. Ecco, costi, tempo, persone, e il vantaggio nostro è proprio quello di che grazie alla Smini Sotto Casa mettiamo a due passi a disposizione chi abita a due passi dal negozio con il negoziante che ha, ad esempio, il verduriere che ha un casco di banane che sta diventando marrone. Perché voi azzerate questa distanza tra chi ha il cibo, mettete in connessione chi ce n'ha bisogno e chi ne ha in esubero. È un'app perfetta, geolocalizzata. Fantastico, bello, Last Minute Sotto Casa, 30.000 persone già l'hanno scaricata, fatelo. E naturalmente poi ci vogliono, insomma, i produttori, quelli che vendono il cibo, che si connettano, perché è di lì che parte tutto. In quante città siete presenti? Ma noi siamo chiaramente in tutta Italia, nel senso che chiunque si può andare sul sito lastminutesottocasa.it e registrarsi. Però diciamo che la cosa, anche se vogliamo, carina, è che questo progetto, che aiuta appunto i cittadini a risparmiare qualcosa, i negozianti a non buttare, è piaciuto molto alle amministrazioni. Ci hanno già chiamato sindaci, assessori, abbiamo presentato il progetto a Asti, Como, Monza, Genova, Napoli, Palermo, Saremo, Siracusa, Catania, Messina. bellissimo. Beh, allora a questo punto dobbiamo risentirci tra un po' e vedere la mappa di Last Minute Toccata, perché nel frattempo è che c'è cresciuto tra le mani, non lo sapevamo neanche noi. Grazie Francesco. Grazie mille. Ciao, in bocca al lupo. Veramente bella questa storia. Adesso è arrivato il momento davvero di salire in bici da Venezia a Torino, progetto Vento. Queste settimane dove c'è il Giro d'Italia, nelle quali c'è il Giro d'Italia, abbiamo deciso di oggi così c'è di... l'ultima tappa di montagna. L'ultima tappa, insomma, domenica. Domani finisce il Giro, Peter Bescapè, tu lo sai. Eh sì, cose. domenica arriva. Domenica finisce il Giro a Milano, come sempre. A Milano finisce, sì, sempre Piazza Castello. E noi abbiamo deciso così di raccontare delle storie che abbiamo a che fare con la bicicletta. Questa in realtà è una storia che meriterebbe un intero programma monografico, perché l'idea di costruire una pista ciclabile da Torino a Venezia, la più lunga d'Italia, sicuramente una delle più lunghe d'Europa, è un progetto che il Politecnico di Milano sta portando avanti da tempo, e noi ne parliamo con Paolo Pileri. Buongiorno, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a voi tutti, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, proprio oggi parte la pedalata a sostegno di questa iniziativa. Paolo Pileri, professore associato del Politecnico di Milano, responsabile di questo progetto. Insomma, ci sarebbero tante cose da raccontare. Intanto diciamo da dove parte la pedalata? Quest'anno proprio partiamo in onore del marchio, proprio da Vento, da Venezia. In questo momento io mi trovo a Saccafiso, le Giudecca, Venezia, in un posto meraviglioso. Bello. Ospite, tutti noi ospiti di una cooperativa Il Cerchio. E partiamo da qui, vi stiamo invidiando cornice, moltissimo. Cornice meravigliosa. Ma c'è da pedalare però, Carlo, quindi non so se giusto, hai ragione, ma hai ragione. C'è da pedalare, ma è una pedalata che tutti possono fare, guardate, certo. tutti. Allora, vengo per la parte in discesa io. Arriverete a Torino quando? Il 7 di giugno arriveremo a Torino. Noi saremo lì passo passo, perché Radio 24 ha deciso di seguire questa iniziativa, siamo media partner, passerete anche da Expo. Quanto manca affinché questo percorso diventi realmente una pista ciclabile unica? Manca tanto ancora? Beh, allora, tecnicamente, come dire, se dovessimo metterci, visto che noi siamo anche bravissimi, tipo Expo abbiamo fatto in 3 minuti, voglio dire, un paio d'anni e potremmo realizzare assolutamente la pista. Il problema è cominciare, però voglio dire, già quest'anno abbiamo tantissime novità in cantiere, sì. Nel senso che la Regione Piemonte sta veramente facendo passi da gigante per la realizzazione. Nei prossimi giorni avremo l'Emilia Romagna che formalmente aderirà al progetto, e localmente ci saranno anche altre novità, una di queste poi la vedremo nei prossimi giorni anche insieme a voi. Quindi si stanno facendo dei passi avanti. Il 3 di giugno incontreremo il ministro Del Rio, quindi il responsabile del governo per quanto riguarda questo tipo di infrastrutture, perché voglio ricordare che le piste cicloturistiche sono un'infrastruttura. Questo è, e tra l'altro voglio dire anche una cosa, perché mi sono dimenticato di ricordarlo, ma questo fa parte integrante del vostro progetto fin dall'inizio. È un fatto di rilevanza importante per il turismo, cioè è una cosa che è in grado di attirare il grande turismo dei cicloamatori. Sono tantissimi in tutta Europa, non dimentichiamolo mai, quindi dare una cosa come una pista ciclabile lungo il Po, un luogo che evoca tantissime cose meravigliose, un sacco di luoghi da vedere, agriturismi, posti meravigliosi, questa sarebbe una leva anche per il turismo. Hai fatto una stima di quanto potrebbe essere attrattivo, vero? Assolutamente, infatti questo dobbiamo pensarle come delle grandissime infrastrutture che conterrebbero flussi giganteschi. Una stima nostra è dai 300 ai 400 mila passaggi all'anno. Vedi, che vuol dire, allora, per queste terre gigantesche. Dobbiamo fermarci qua. Io passo il testimone, credo, ad Alessandro Milan, che il 3 giugno mattina farà un altro collegamento con voi. Grazie intanto, Paolo Pileri. Grazie mille. Vento. Veramente, in bocca al lupo. Buona pedalata. Bellissimo, meraviglioso. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta anche oggi. Dobbiamo dire chi vince. E sicuramente vince l'ascoltatore Sergio da Pescara, per aver detto che gli impresentabili sono coloro che votano gli impresentabili. E così si porta a casa l'itinerario e la mini guida, la guida breve del Sole 24 Ore, parte nell'itinerario di Expo, proprio dell'Esposizione Universale. Grazie a tutti. Io stasera sono a Bergamo, lo dico, alla Festival Diverso da Chi, alle 19 stasera a Bergamo. Buon divertimento. Grazie a Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, Peter Bescapè in regia quest'oggi. Ci sentiamo domani 8:30, 11 come si può fare. Ciao da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini. Ciao.